La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata della Quota Rosa e anche questa volta ci occuperemo di nuovo di Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa sotto la sua casa per aver scritto di Cecenia, per aver scritto dei massacri che si compivano in Cecenia da parte dell'esercito russo. E allora ci sono delle novità sul processo, un processo che ha visto tutti gli imputati assolti, che però invece sarà da rifare perché la Corte Suprema russa annulla le assoluzioni per l'omicidio della giornalista. I fratelli ceceni e l'ex poliziotto che sono accusati di aver materialmente ucciso Anna Politkovskaja dovranno essere riprocessati, però la famiglia si oppone. Allora vogliamo capire con Andrea Riscassi, presidente dell'associazione Un Albero per Anna, perché e che cosa è successo a Mosca. Buongiorno Riscassi. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, perché la famiglia si oppone alla riapertura di questo processo? Ma perché la famiglia vorrebbe che le indagini che riguardano l'omicidio della Politkovskaja fossero più approfondite di quelle che hanno portato alla sentenza di febbraio e a questa assoluzione. Per cui non è che non vuole sapere cosa è successo, vuole che ci sia giustizia e non che ci sia un colpevole, purché sia, come invece sembra cercare la giustizia russa. Gli avvocati della Politkovskaja e dei figli non hanno fatto ricorso contro la sentenza perché volevano che ripartisse da capo, diciamo, l'inchiesta giudiziaria, cosa che non sarà. Ecco, questi due fratelli ceceni e l'ex poliziotto sono praticamente gli autori materiali del delitto? No. L'autore materiale del delitto non è mai stato individuato. Sì, diciamo, nessuno è stato individuato, si parla sempre di presunti. Comunque questi due qua, i due fratelli, sono quelli che materialmente avrebbero accompagnato il terzo fratello sul luogo dell'omicidio, mentre due poliziotti, diciamo, indagati. Un attimo, perché c'è stato... ricominciamo questa frase. I tre imputati sono autori materiali del delitto oppure sono i mandanti? No, non sono né gli autori materiali del delitto né i mandanti, fanno parte dello staff che avrebbe favorito l'autore materiale del delitto, quindi due fratelli l'avrebbero accompagnato sul luogo dell'omicidio, mentre il poliziotto insieme a un altro sono quelli che avrebbero indicato a queste persone dove era la casa della Politkovskaja, quindi diciamo facevano parte dello staff del presunto killer. Che Politkovskaja ha sempre detto dovrebbe poi essere stato mandato dal Cremlino. Queste erano un po' le sue accuse, no? Prima di venire uccisa. Lei diceva probabilmente se io mai venissi uccisa, chi sarà il mandante è il Cremlino di Putin. Questa è un po' l'accusa della Politkovskaja, no? Sì, diciamo che il fatto che abbiano individuato comunque il gruppo di killer senza aver mai cercato chi avesse dato mandato a questi killer di agire, chi avesse pagato questi presunti assassini, delegittima l'inchiesta, nel senso che dal punto di vista giudiziario, se ci sono dei killer più o meno professionisti, c'è sempre qualcuno che li paga. Questo la giustizia russa non ha mai cercato di scoprirlo. Che se sia stato il Cremlino poi è difficile dirlo. Certo che se non è stato, cioè se le autorità non hanno perpetrato il delitto prima, sicuramente hanno coperto i responsabili dopo, di questo sicuramente sono responsabili. In un libro che lei ha scritto, uno dei tanti libri, La Russia di Putin, edito in Italia da Delphi, la Politkovskaja scrive chiaramente che in Russia si fa uso di una sorta di giustizia al telefono, cioè in pratica il governo telefona al giudice per bloccare o aumentare la pena a secondo delle convenienze, e il giudice poi alla fine è di fatto un po' succube del potere politico. Che cosa invece ha indotto la Corte Suprema a dichiarare assolutamente nulla la sentenza dell'assoluzione? Forse il fatto che ci siano state molte proteste internazionali? No, delle proteste internazionali tendenzialmente al Cremlino non gliene frega niente, anche perché di proteste internazionali non ce ne sono state, se non da parte di opinione pubblica. Diciamo, le cancellerie occidentali non si sono stracciate le vesti o strappate i capelli per questa sentenza, per cui se anche l'avessero fatto non avrebbero smosso le acque di un paese che comunque vive di una sua diciamo immagine molto forte di sé. E la giustizia in Russia non è indipendente dalla politica, l'attuale procuratore generale russo e l'ex ministro della giustizia, e l'attuale ministro della giustizia e l'ex procuratore generale, per cui ci sono interscambi. La Suprema Corte è ragionevole che si sia mossa su input politici. Quali siano questi input non è facile da capire. È chiaro che anche in Russia, essendo un grande paese, ci sono varie forze centripete che si muovono. Può essere che sia un segnale mandato a un gruppo piuttosto che l'altro di quelli che dominano la scena, però è una decisione politica questa di annullare quella sentenza, non è sicuramente una decisione giudiziaria, anche se l'inchiesta, così come è stata portata avanti, ragionevolmente non poteva portare che alla soluzione, e per chi ha seguito il processo questa decisione della Corte Suprema non è giunta inaspettata, nel senso che era proprio sbagliato il tutto. Cioè, era talmente tanto evidente che il processo era completamente fasullo che hanno dovuto annullarlo. Oppure questo simboleggia una perdita di potere di Putin, un inizio, un'incrinatura? No, non si muove foglia che Putin non voglia i russi, per cui non è, sicuramente non è stato fatto a dispetto di Putin questa decisione. Diciamo che all'atto della richiesta delle condanne, la stessa procura aveva individuato altri possibili assassini del gruppo, cosa che non era stata, cioè mentre chiedeva le condanne per i presenti, quindi anche dal punto di vista strettamente legale la parte giudiziaria è stata fallace anche rispetto alla giustizia russa, anche rispetto alla legislazione russa. Insomma, il prossimo processo secondo te avrà delle sorprese? Finalmente riusciremo ad avere un colpevole oppure continueranno queste falle nella giustizia russa, e soprattutto continueranno a morire i giornalisti? Perché ricordiamo che anche poco tempo fa sono stati uccisi alcuni giornalisti. Sì, diciamo che trovare un colpevole non è difficile, è una cosa abbastanza facile. Fare giustizia è molto più complesso. Se la giustizia russa vorrà trovare un colpevole non avrà che l'imbarazzo della scelta. Se decideranno invece di capire chi ha ucciso la Politkovskaya, perché, chi ha dato il mandato e con quali motivazioni, le cose saranno un po' diverse. È chiaro che lei è un processo simbolo, nel senso che lei, come tutti gli altri 200 giornalisti che sono stati uccisi dalla fine dell'Unione Sovietica ad oggi, sono tutti morti, per cui nessuno ha pagato. Se per una volta si darà segnale a chi l'ha uccisa che qualcuno può pagare, magari per il futuro invece di ucciderli li querereranno, come avviene nei paesi democratici, diciamo, i giornalisti. Voi continuerete a seguire il processo come associazione Un Albero per Anna? Sì, l'associazione, che si chiama Anna Viva, che ha un sito www.annaviva.com, segue il processo, segue ciò che succede oltre il muro di Schengen, per cui noi proseguiremo, lo seguiremo anche fisicamente, diciamo parzialmente, il processo, per cui manteniamo desta l'attenzione su quel che accade. E allora, per ricordare questa grandissima giornalista Anna Politkovskaya, sentiamo da Cecenia, Il disonore russo, edizione Fandango, un brano di quello che lei scriveva. Oggi le nostre lancette girano solo all'indietro. La nuova guerra civile non è stata dichiarata contro un unico popolo del territorio russo, ma contro tutti. Ognuno ci mette un po' del suo. La guerra lascia la sua impronta in ogni città, ogni regione, ogni repubblica. Ha invaso tutto e tutti vi partecipano. Neanche l'autrice di questo libro sfugge alla regola. In che epoca viviamo? Cos'è questa nuova guerra? Quale ritmo imprime alla nostra società? Chi siamo noi, cittadini russi dell'inizio del XXI secolo? Noi? Noi siamo pronti a scannarci per ogni parola che non ci piace. Siamo intolleranti e intransigenti. Noi? Noi, molto semplicemente, abbiamo ricominciato a mettere in circolazione concetti gravi come quello di nemico del popolo. E affibbiamo questa etichetta a tutti quelli che non la pensano come la maggioranza, senza alcuna distinzione. Noi? Noi abbiamo riconosciuto che una pallottola in testa è il mezzo più semplice, più naturale per risolvere qualunque conflitto, per minimo che sia. Noi? Noi, inariditi dalla guerra, odiamo più spesso di quanto non amiamo. L'odio è la nostra preghiera. Stringiamo i pugni volentieri, ma abbiamo difficoltà a riaprire le mani. E ancora una volta, invece di respirare l'aria a pieni polmoni, ci nutriamo del sangue dei nostri compatrioti senza battere ciglio. Non è forse guerra civile questa? E veniamo a parlare dell'argomento della settimana, il Partito Democratico, le candidature, tanti concorrono alla segreteria del partito, non solo Pierluigi Bersani, non solo Dario Franceschini, attualmente reggente, ma anche una novità, ci sarà un terzo candidato alle primarie, Ignazio Marino, senatore del PD, autore molto delle proteste sul testamento biologico. Però quello che ci sorprende un po' come quota rosa è l'assenza totale di donne candidate alla segreteria del partito. In un partito in cui ci sono dei personaggi di spicco, e noi proprio di questo vogliamo parlare con le nostre ospiti. Intanto salutiamo Luciana Sbarbati, buongiorno. Senatrice, buongiorno, l'onorevole Paola Concia, buongiorno. Buongiorno. E vorrei subito introdurre una lettera che hanno scritto le senatrici, firmata anche da Luciana Sbarbati, al segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. Caro Dario, ti chiediamo un incontro per discutere il progetto riformista del Partito Democratico che serve all'Italia in vista delle prossime sfide nazionali ed internazionali, nella convinzione che senza un ruolo autonomo, forte ed incisivo delle donne, nessuna sfida potrà essere vinta. Luciana Sbarbati, lei è stata una delle fondatrici dell'Ulivo, era del Partito Repubblicano e ha deciso di confluire nel PD, ma è in atto una battaglia nel PD tra il fronte ulivista rappresentato un po' da Bersani e il fronte a vocazione maggioritaria rappresentato un po' da Veltroni? Ma intanto le devo una precisazione, io non sono confluita nel PD, ho fatto un patto di alleanza con il PD e ho mantenuto l'autonomia del mio movimento dei Repubblicani Europei. Questo perché? Perché nel momento in cui, dopo 12 anni di battaglia per costruire l'Ulivo per il Partito Democratico, nel momento in cui si è strutturato e fondato il Partito Democratico, noi Repubblicani Europei siamo stati, come dire, estromessi dall'essere soci fondatori. Quindi entrare, diciamo, uti singoli non ci interessava, ci interessava entrare come forza politica, come entità culturale che poteva dare appunto il suo apporto sia sui temi della laicità che della modernità che della, come dire, finanza pubblica, dell'economia, ma questo non ci è stato concesso, per cui ci siamo, come dire, messi per conto nostro, ma Veltroni ha ritenuto di dover ridialogare con noi, abbiamo fatto questo patto e siamo, come dire, in alleanza con il Partito Democratico, con l'impegno che qualora il Partito Democratico si fosse strutturato nei termini proprio delle categorie per le quali era nato, quelle categorie che facevano riferimento all'Ulivo, come lei ha detto giustamente, pluralismo, laicità, modernità, equità, insomma abbiamo scritto anche nella lettera peraltro, perché vi ho dato anche il mio contributo, e noi avremmo anche, come dire, con molto piacere favorito questa confluenza dei Repubblicani del Partito Democratico e avremmo sciolto il movimento. Ecco. Ma lei questo appoggia. Non si è verificato, per cui a gennaio io ho ripreso totalmente la mia autonomia, pur rimanendo nel gruppo del PD, perché quello era il patto e lealmente io sto ai patti, non faccio come gli pietro la situazione che fa i fatti suoi. Ho capito, onorevole Sbarbati, ma lei in questa corsa alla segreteria ha deciso chi appoggiare? Perché allora, qui adesso ci saranno le primarie. Insomma. No, io non ho deciso chi appoggiare e per questo la lettera vale per Franceschini, vale anche per Bersani, varrà per chiunque si candidi. Perché siamo ormai ad una svolta, il Partito Democratico che è uscito da queste elezioni comunque sconfitto, che se ne dica, deve riflettere sul fatto che gli italiani non lo hanno percepito come alternativo al Partito della Libertà. Di là avevano un progetto, noi possiamo non condividerlo, ma di qua nessuno ha capito quale progetto ci sia. È ora di parlare di contenuti, è ora di darsi un progetto alternativo a quello del centrodestra e quindi del Partito della Libertà, che possa essere riconosciuto, riconoscibile, su cui il popolo italiano che ha votato per le primarie, che ha creduto nel Partito Democratico, si possa ritrovare, si possa riconoscere. Allora io voglio capire di questi candidati, se qualcuno mi dice che è in grado e quindi ha il coraggio di riaprire il processo costituente, facendo in modo che questo partito non sia soltanto la sommatoria, tra l'altro abbastanza cagnarola come si dice nelle Marche, di democristiani, post democristiani e post comunisti, ma facendo sì che ci siano più culture, ci siano altre rappresentanze, ci siano cittadini liberi dai partiti, ci sia veramente quel pluralismo che abbiamo sempre invocato, allora avrà il mio consenso e avrà quello dei Repubblicani Europei. Se questo non avviene non ci interessa proprio, quindi è un momento importante, io non voglio defilarmi, voglio essere in questa partita, voglio capire bene, ma se capisco bene e c'è qualcosa che ci come dire, attrae da questo punto di vista, benissimo, i repubblicani ci saranno e faranno la loro parte, anche perché ci abbiamo speso 12 anni di vita tutti quanti, no? Con generosità e con impegno, perché ci abbiamo creduto, ma non possiamo continuare a credere in un soggetto che non si struttura, non decolla e non ha qualche cosa da dire di serio in cui appunto la gente si possa riconoscere. Allora, noi ci saremo se questo avverrà, se questo non avverrà potrà essere Franceschini, Bersani, chiunque. Non le importerà, non saremo, perfetto. Esatto. Allora, onorevole Livia Turco, lei è stata una deputata, è una deputata attualmente, no? Che ha visto molte legislature, ha visto molti partiti. Lei ha deciso di appoggiare Pierluigi Bersani, per quale motivo? Ma io innanzitutto ho deciso di appoggiare me stessa, nel senso che... Ma noi infatti vorremmo lei, oppure Anna Finocchiaro, un'altra donna. Nel senso di appoggiare me stessa, nel senso di essere coerente con l'idea della politica, con un progetto politico che per quanto mi riguarda non lo ha inventato Bersani e non nasce ora, quindi questa impostazione esasperata a cui voi date un bel contributo, che è quello di dire con chi stai, dove stai, la leadership e chi si candida, lo trovo che sia una grave limitazione della politica, perché per fortuna la politica è la politica utile, quella che vince, la politica prossima alle persone è quella che invece giorno per giorno cerca di costruire relazioni umane. Infatti, vedi, io sono sul treno che sto andando ad un'assemblea promossa da una bravissima donna che fa l'assessore disabile, che fa l'assessore alla disabilità. Per me questa è la politica, io partecipo al congresso mettendo in campo questa politica, perché penso che se oggi c'è un grave problema dell'Italia è che la politica ha perso questa caratteristica, la politica ha perso la caratteristica di essere bene comune, di essere a servizio degli altri, di essere prossima alle persone, la politica ha perso questa caratteristica, purtroppo questo è il dramma dell'Italia e io credo che il PD possa essere utile all'Italia, a me non interessano queste parole nuovo, vecchio, moderno, mi interessa, voglio un partito che sia utile alle persone, se devo usare un'espressione mi piace quella di un partito delle persone, per le persone, che sia utile, che sia prossimo, che sappia condividere, che metta in campo amicizia, relazione umana, che sappia condividere, come vede è un linguaggio molto lontano da quello che ogni giorno appare sui giornali, ma io... Cioè non è che appoggia Bersani perché le sta simpatico, ecco. Ma io intanto insisto, appoggio una politica che oggi è interpretata da Bersani che si è candidato, mi si consente di insistere, tanto che io sono in campo con me stessa, con un progetto, con un'idea, ecco, ma non idea è la politica e poi che Bersani, forse se gli altri lo interpreta e quindi sostengo lui, ma questa cosa è esasperata, per cui bisogna, cioè non è che la politica è soltanto chi si candida, la politica è chi la fa ogni giorno. Ecco, ma lei che la fa ogni giorno. Di sottrarmi a questo inserimento. Certo, però ecco. Onorevole Turco, lei è stata DS, è stata del PC, sì. Insomma è una persona che ha lavorato nelle fabbriche, ha ascoltato la base, è una persona che ha un curriculum di tutto rispetto. Mi spiega perché nel Partito Democratico non c'è nessuna donna come lei, come Anna Finocchiaro, candidata alla segreteria? Non era il caso anche di mettere in campo le risorse che questo partito ha a livello femminile, che però non è solo perché sono donne, ma perché una persona con il curriculum come il suo o come il curriculum di Anna Finocchiaro non si vede perché non debba concorrere alla segreteria? No, ma questo io intanto la ringrazio per questo riconoscimento, perché siccome non è usuale la ringrazio. Io rispondo per me, certo, io vivo come un limite il fatto che non ci sia una donna con la nostra storia che sia in campo, questo è un motivo di riflessione. Io lo vivo come un limite, lo vivo come uno scarto, non c'è dubbio. Che donne che si sono sempre molto impegnate, che hanno costruito, che hanno lavorato nell'ombra, che hanno però costruito delle cose concrete, importanti, utili, perché poi non decidano di essere prime. Io questo è uno scarto per quanto mi riguarda, perché non dire che uno vive questa fase anche come se fosse un po' fuori moda, quindi... ma è una riflessione seria che non può essere liquidata così, non so perché Anna non abbia deciso di farlo. Insomma, non mi sembra che questo... Affermo che sicuramente ci poteva essere, se non c'è stato, per un senso di responsabilità, per una misura. Ecco, vede, io rivendico il valore della misura, rivendico il fatto che si faccia politica non soltanto se si è candidati, non si fa politica soltanto se si è leader. Io rivendico questa politica, rivendico la politica del gioco di squadra, della cooperazione, e rivendico una politica in cui conta la misura. Forse alcuni di noi hanno avuto eccessivamente il senso della misura, forse ci siamo sentite eccessivamente inadeguate, ma con i tempi che corrono preferisco la misura alla presunzione. Allora, la ringrazio, rimanga con noi. Un terzo candidato è spuntato nella competizione, un candidato laico che però rompe un po' questa dicotomia che sembrava, no, ci fosse anche sotto sotto, tra un Franceschini che viene dai popolari, cattolico, e un Bersani che viene dai DS, laico. Perché il candidato in questione è Ignazio Marino, medico, si è battuto in Senato per la legge sul biotestamento biologico, appoggiato da una deputata che sicuramente combatte sul fronte laico e sul fronte dei diritti, che è Paola Concia. Attualmente c'è un manifesto dell'ARCI che la ritrae insieme a un altro deputato PD, Gian Leonardo Adì, e ci chiami sporco negro e lesbica schifosa, ma ti offendi se ti chiamiamo italiano mafioso. Il razzismo è un boomerang, prima o poi ti ritorna. Si vede una foto a metà con Jean Leonard Tuadì e Paola Concia che manifestano quindi contro i pregiudizi. Buongiorno Paola, perché buongiorno. L'appoggio a Marino? Intanto io sono d'accordo con Livia Turco, con la quale noi veniamo dallo stesso partito e abbiamo condiviso tante battaglie, e sul fatto che appunto su questo bisognerà interrogarsi, sul perché noi donne, lei compresa, non ci siamo candidate. Io credo che sia vera una battuta che ha fatto Anna Finocchiaro: circola troppo testosterone in questa prima fase del congresso. E comunque, a parte le battute, c'è stato un eccesso, come dice Livia, di misura delle donne, cosa che gli uomini in genere non hanno, no? come è noto. Detto questo, io appoggio Ignazio Marino perché non soltanto per le battaglie sulla laicità che io e Ignazio Marino abbiamo fatto da sempre insieme, e non soltanto perché noi porteremo solo questo argomento dentro il congresso, perché noi vogliamo aprire uno spazio non nuovo, uno spazio in cui ci sia un rinnovamento vero, non quello né finto. Livia mi conosce troppo bene, e anche la senatrice Sbarbati, per sapere che io non sono nuova, ma aprire uno spazio per una nuova cultura politica. Non che gli altri candidati non facciano questo sforzo, io mi auguro che, tra l'altro, mi auguro che dopo il congresso che non ci siano morti e feriti. La quota rosa. E ricordiamo che Dario Franceschini, in questa corsa al PD, stiamo appunto parlando delle varie donne nel Partito Democratico e perché non sono candidate alla segreteria, ricordiamo appunto che Dario Franceschini è appoggiato da Deborah Serracchiani, eletta nel Nord-Est e attualmente parlamentare europea. Deborah Serracchiani abbiamo provato a contattarla, ma purtroppo ci ha detto che, visto le polemiche che avevano suscitato alcune sue dichiarazioni della serie "Voto Franceschini, sostengo Franceschini perché è simpatico", preferisce in questo momento ribadire il sostegno a Franceschini, ma ritirarsi un po' dalla scena, almeno per questi giorni. Allora, torniamo a parlare con Paola Concia. Insomma, Paola Concia, c'è stata però molta, molta polemica contro questa giovane esponente del PD perché aveva fatto questa uscita. Insomma, dice, alla fine lei dice, io sostengo Dario Franceschini perché va oltre, vuole creare un partito nuovo. Ma Ignazio Marino, che partito vuole creare? Ma Ignazio Marino vuole creare niente proprio di meno che il PD, come tutti immagino, mi auguro. Naturalmente ci sono visioni diverse del PD, c'è una visione diversa di alcune cose, e per cui un congresso si fa per questo, cioè per capire quale dovrà essere quali dovranno essere gli ideali, quale dovrà essere il colore del PD che verrà. Per cui io sono convinta, al contrario di Debora, che tutti vogliono il PD. Detto questo, le polemiche che hanno suscitato la sua intervista a me, nonostante io abbia anche criticato alcune cose che ha detto, mi sono sembrate eccessive, mi è sembrata un'eccessiva guerra di bande. E io credo che questo congresso non debba essere questo, perché noi dobbiamo cercare soprattutto di parlare di quale paese vogliamo, naturalmente quale paese vogliamo attraverso quale partito, è ovvio, quale struttura del partito, quali valori devono essere del partito, quali deve essere l'idea di economia, le idee sull'ambiente, le idee sull'università, sulla ricerca scientifica, sul rapporto tra lavoro e università. Naturalmente tra i valori ci sono quelli della laicità, per quanto mi riguarda, i diritti civili. Per esempio, per quanto mi riguarda, io credo che il PD deve essere un partito che mette insieme diritti sociali e diritti civili, finalmente nel nostro paese. Un partito che, come dice la mia campagna, finalmente mette sullo stesso piano omofobia e razzismo, cosa che nel nostro partito non è ancora così. Per esempio, questo lo dico alla Svarbati, lo dico a Livia, e loro lo sanno che non è così. Negli altri paesi è così, la battaglia contro il razzismo è la stessa battaglia contro l'omofobia. Per esempio vorrei un partito così, appunto, vorrei un partito che fosse laico, che non significa laicista, cioè un partito rispettoso di tutti, ma che a un certo punto prende le sue scelte nette su alcuni temi che riguardano le libertà individuali. Noi faremo intanto con Ignazio Marino sicuramente faremo una battaglia per e contro nessuno, questo è sicuro. Io non ho mai fatto politica contro nessuno, e certo non posso fare politica contro Livia Turco, che è una donna che mi ha insegnato molto, con la quale io ho condiviso 25 anni di battaglie politiche. Probabilmente ci divideremo su alcune cose, ma ci divideremo sui contenuti, e poi momentaneamente continuando cercando di parlare al paese. Sulla questione delle donne, io credo che ci sia di noi donne nel PD, io credo che ci sia un grande problema, credo che questo problema tutte lo dobbiamo affrontare in modo più deciso, perché questo continua a essere, nonostante tutto, un partito governato esclusivamente da uomini. E infatti, essendo poi voi i riformisti, vi dovete insomma fare determinate domande. Sì, però insomma io avrei preferito, ma non perché conduco la quota rosa, per veramente dare un segno anche al paese di cambiamento, no? Che ci fosse almeno un candidato alla segreteria donna. Ricordiamo che attualmente in Germania c'è un cancelliere donna, Angela Merkel, no? Solo nel nostro paese la politica purtroppo continua a essere governata solo dagli uomini. Livia Turco, c'è stata anche un po' di polemica su queste due correnti, Franceschini e Bersani, perché si dice bene o male che Franceschini rappresenti un po' l'area cattolica, e però poi ha dietro le spalle Veltroni, Bersani ha dietro le spalle D'Alema, l'area laica, insomma la vecchia divisione dei DS. Ma questo non corrisponde ai fatti, alla realtà. La realtà è che c'è stato un mescolato di carte, e questo mi sembra l'aspetto interessante della fase che viviamo, perché la candidatura di Franceschini è sostenuto da forze che componente cattolica, popolare, da quella di sinistra, la stessa cosa. Per Luigi Bersani, perché non mi pare che Rosi Bindi e Enrico Letta provengano dai DS, quindi un rimescolamento di carte c'è stato ed è interessante. Penso che questo consenta una discussione congressuale che sia molto incentrata su dove va l'Italia. Noi stiamo vivendo una crisi drammatica, l'Italia sta retrocedendo, c'è una crisi sociale pesantissima. Ecco, Bersani ha puntato, no? Mi auguro che di questo si debba discutere. Sì, io ho delle ragioni per cui penso che Bersani sia la persona giusta, per esempio più giusta di me, ecco, per tornare al discorso, perché non mi siete candidate, più attrezzata di me, perché oggi bisogna essere molto attrezzati sui temi della crisi economica e sociale, e bisogna avere una robusta cultura di governo. E francamente delle persone all'interno del PD credo che Pierluigi Bersani sia la persona che ha dimostrato di avere una cultura sulle politiche economiche e sociali molto forti, oltre che di avere una idea di partito che personalmente condivido. Ma se penso all'Italia, perché io credo che dobbiamo pensare all'Italia, a questo momento di crisi drammatica, bisogna essere attrezzati per governare la difficoltà e la crisi drammatica proprio sul piano economico e sociale, ed avere l'attrezzatura di governo, di idee, per dare una risposta a questa crisi che non è soltanto italiana, che non è soltanto europea. E io penso che non possiamo aspettare dopo il congresso a fare questo, dobbiamo farlo ora, anche perché le risposte date dal PD fino ad ora sono state utili, importanti, ma sono insufficienti. Beh, lei ci dice, Bersani, le è piaciuto il suo discorso all'Ambra Iovinelli, incentrato sulla crisi, su come combattere la crisi. Non è che non è mi è piaciuto un discorso, perché non si valuta un bisogno solo al discorso. Valuto i suoi anni di lavoro, valuto ciò che ha messo in campo, ciò che ha costruito, perché le proposte per il futuro. Non è un discorso ciò che convince. Ciò che convince è una prova che uno ha dato, è una prova. È un'attrezzatura culturale, un'attrezzatura di pensiero, è un'attrezzatura di capacità di fare squadra, perché poi la politica è efficace al paese, è utile al paese, lei ci se dice... mette in moto le persone, se fa fare squadra, e questa è una dose che ha dimostrato di avere, che io, ed è una delle ragioni che per cui lo apprezzo, ma soprattutto bisogna essere attrezzati per governare una grave crisi economica e sociale oggi. E di tutti i candidati mi sembra che non ci sia partita, ecco. Ho tra capito. I candidati su questo punto proprio non c'è partita, perché la questione non è quella della laicità, su cui tutti siamo d'accordo. Io non avrò motivo di discutere con Paola Conce, perché credo che siamo d'accordo su tutto, poi forse lei ha più qualche accentuazione. E il tema della laicità è sicuramente importante, ma mi pare che non sia questo l'elemento del contendere. Mi pare che il tema vero sia quello della natura della crisi economica e sociale, della natura del partito, e su questo devo dire veramente È quello il punto, e lei ci ha spiegato per quale motivo ritiene addirittura Bersani un candidato migliore proprio anche di se stessa, che ha un curriculum di tutto rispetto. Luciana Sbarbati, che cosa succederà? Lei ha più una vocazione olivista, essendo repubblicana europea, che certo. Come vorrebbe vedere questo Partito Democratico? Insomma, primarie che cosa simboleggeranno? Gliel'ho detto prima, cioè intanto torno alla domanda iniziale, che credo che sia diciamo il cuore di quello che Quota Rosa voleva oggi mettere a fuoco. Io credo che ci sia, la nostra democrazia ha un grande debito verso le donne, ma le donne non riescono a farsi pagare questo debito nei termini giusti e dovuti, democratici, della pari opportunità e non discriminazione in politica ormai da troppo tempo, e siamo andati addirittura indietro. Non è un caso che non ci sia una candidata all'interno del PD, non è affatto un caso che a tutte le tavole rotonde che contano, quelle sul piano economico, quelle sulla politica internazionale, la politica estera, non c'è mai una donna che parla, non è un caso che si mette il silenziatore a qualcuna che tenta di parlare, e non è un caso tutto questo. Quindi non si meravigli Quota Rosa, non si meravigli nessuno. O le donne prendono il coraggio per mettere in campo una assemblea nazionale costituente di tutta la realtà politica femminile, per darsi loro piani, regole, progetto politico e portarlo all'interno dei partiti facendolo valere con regole nuove, o non usciranno mai fuori da questo impasse. Quindi ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, va fatta una richiesta forte per un ministero delle pari opportunità con portafoglio, va istituita una commissione parlamentare, non le varie 150.000 commissioni periferiche, che faccia da interfaccia a questo ministro. La commissione parità deve essere anche non discriminazione, nel senso che diceva anche Paola Concia, vale a dire che non si parla soltanto di questione uomo-donna, ma anche di non discriminazione in senso largo e vasto, dal campo sessuale a quello religioso, a quello fisico e così via, a quello del censo, come hanno tutti i paesi civili, come ha all'Europa, no? Quindi è lì che dobbiamo spostare appunto il nostro interesse, è lì che dobbiamo dimostrare una forza, una convinzione, soprattutto una solidarietà non parolaia, non salutiera, ma fatta di fatti concreti e contenuti. Ecco, quindi questo penso di essermi spiegata. Sul quarto riguardo, per quanto riguarda il Partito Democratico, come lei ha sentito, io voglio bene sia a Livia Turca che a Paola Concia, sono delle carissime amiche, persone validissime, ma credo che hanno ancora una volta dimostrato che il dialogo è tra DS e Margherita e continua ad essere DS e Margherita e tra nomenclatura di DS e Margherita. Quindi abbiamo tanto, come dire, si è sparato su questa signorina, su questa giovane Serracchiani che io non Deborah conosco. Serracchiani. Però tutto sommato ha avuto il coraggio di dire in maniera plateale quello che tutti pensano e che nessuno vuol dire. Qua ci sono dei tappi ormai, come dire, incrostati nella politica italiana, a destra come a sinistra, che se non si fanno da parte non consentiranno mai il rinnovamento. E tutto questo significa che nel PD continuano ad essere la nomenclatura di S con la nomenclatura della Margherita, che si fanno battaglia o si baciano sulla bocca quando a seconda delle convenienze e non lasciano spazio altro alcuno a culture diverse, alternative, diverse come può essere la mia, quella repubblicana. Io sento di non avere spazio ed è per questo che con molta sofferenza sono rimasta con lealtà là dentro, ma allora, credo che se questi candidati non avranno la forza di riaprire un processo costituente che è stato ridotto a un patto a due e che non interessa più gli italiani, lo hanno dimostrato nonostante Berlusconi la destra ha vinto perché aveva un progetto, se lo scordi di Via Turco che non c'è un progetto dall'altra parte, c'è, noi non lo condividiamo, ma c'è un progetto che ha radici italiane, ha un'interfaccia europeo che è importantissimo, è stato costruito con intelligenza, nonostante lui la gente, il popolo italiano ha votato in maggioranza per il Partito della Libertà. Quindi su questo o ci facciamo una riflessione seria e riusciamo a capire dove si è sbagliato e perché si è sbagliato e cosa c'è che non va nel PD, se i candidati sapranno fare questo e riaprire con coraggio il processo costituente, i repubblicani ci saranno perché ci sono sempre stati e ci hanno sempre creduto fin dal primo momento. Il Partito della Democrazia non è soltanto nei nostri sogni e desideri, è nel nostro stesso DNA. Io vorrei concludere questa parte politica, però tornando a parlare di cronaca, purtroppo c'è un'altra violenza a Roma. Una ragazza è stata violentata ieri nella notte all'Eur, nella capitale. Ci si chiede che cosa stia succedendo, un altro stupro dove, dopo quelli dei mesi scorsi, un'altra violenza contro le donne. La quota rosa. Il taxi, la città che scorre fuori dai finestrini, la mia immagine riflessa sul vetro iniziano ad alterarsi. È una sensazione sottile che si insinua in ogni fibra del mio corpo e poi dentro, lentamente, fino al cervello e nell'anima. La prima cosa è l'aria, che si condensa e mi impedisce di respirare normalmente. Poi la vista, il campo visivo si riempie di piccoli corpuscoli, macchie che fanno tremare il mio orizzonte. Vedo la testa del tassista come se stesse per diventare liquida. Lo stesso vale per le mie mani e per le auto che ci affiancano ai semafori. Il mondo reale perde di solidità e i miei sensi reagiscono d'istinto. Le mani sono bagnate mentre la saliva scompare. Senza rendermene conto, irrigidisco i muscoli delle mascelle e incasso il collo come fosse un blocco di marmo. Parole di Rossella Canevari, No Panic, un romanzo sugli attacchi di panico, edizione Anagramma. Rossella Canevari è con noi oggi, buongiorno. Ciao a tutti, ciao. Prima di tutto bentornata, perché tu hai scritto anche Volevo un mondo rosa shocking, in cui citavi addirittura la nostra trasmissione. È vero, sì. Allora, Rossella, questo nuovo romanzo ha a che fare con un tema molto importante per tutte le donne e per soprattutto le adolescenti, gli attacchi di panico. Chi è la protagonista? Che cosa fa? Bianca, una ragazza, e perché soffre di questo disturbo? Allora, Bianca è una ragazza di 35 anni che soffre appunto di attacchi di panico. In realtà, quando il romanzo inizia, Bianca è una donna in carriera che ha un fidanzato che è il suo ex analista, e tutto sembra andare bene. In realtà l'ombra di questa patologia che la perseguita dai tempi dell'adolescenza non è stata risolta e quindi basta un nulla per ritornare e riaggredire, diciamo, la sua vita. Ecco, questo romanzo è in un certo senso autobiografico, nel senso che anch'io ho sofferto di attacchi di panico, ma come tutti i romanzi non lo è mai fino in fondo. Ho voluto raccontare una patologia che è sicuramente molto importante oggi nella società contemporanea e nelle città industrializzate, e che sono riuscita così a vincere. Ecco, come ci sei riuscita? Che cosa consigli alle nostre radioascoltatrici che si sintonizzano su Radio 24 per sconfiggere questa paura, alle amiche di persone che soffrono di attacchi di panico? Ma dunque, prima di tutto mi rendo conto che chi non li ha provati non può capire che cosa siano. Questa è veramente una patologia molto limitante nella vita di tutti i giorni, ed è una cosa che è difficile da gestire. Ci ho messo molti anni a capire prima di tutto che cosa fossero e poi come intervenire. Sicuramente la prima cosa è rivolgersi a chiedere aiuto, comunque a chi ci sta vicino, familiari, ma anche medici e psicologi. Intraprendere una terapia e nei momenti acuti di questa patologia sicuramente sono necessari anche dei farmaci, ma per un periodo molto breve. L'importante è riuscire poi a guardarsi dentro e iniziare un percorso di autoanalisi, ecco. Tu dedichi questo libro ad Anna, che mi ha insegnato tutto e che non è mai andata via. Chi è? Dunque, come per la protagonista Bianca del romanzo, Anna era mia madre, che appunto 20 anni fa è purtroppo mancata. E quindi in questi tratti, per esempio, Bianca mi è molto vicina. Ho vissuto un percorso molto simile. Ovviamente il finale del mio, non racconto il finale del romanzo, ma la mia storia non è stata così traumatica e violenta, è stata una storia molto più normale, ecco. A chi soffre attacchi di panico? Chi soffre attacchi di panico, diciamo così, è discriminato rispetto agli altri, perché a un certo punto, se c'è un appuntamento di lavoro, magari si è bloccati, oppure si ha bisogno di una persona che ti accompagni, no? Quindi diventa molto difficile. Sì, è vero. Diciamo che non è una vera e propria discriminazione, anche perché chi ne soffre spesso non ha il coraggio di parlarne. Però ci sono delle forti limitazioni nella vita quotidiana. Non ci sono poi dei sintomi comuni. Ci sono i sintomi più generici, che sono quelli che possiamo provare tutti e che vengono provocati anche in una forte ansia. Ma poi per ciascuno l'attacco di panico ha delle sfumature così differenti e così personali che possono essere quasi simili alla pazzia, piuttosto che a delle paure molto forti. E quindi sì, io penso che sia veramente limitante, per me lo è stato. Ci ho messo anni a riuscire ad avere una vita normale, a lavorare. Mi preme dire però che nonostante tutto gli attacchi di panico sono stati sicuramente una delle cose più brutte della mia vita, ma anche più belle ed importanti, perché la mia vita adesso è estremamente migliore, io sono riuscita a raggiungere ciò che volevo. Tu ne sei uscita con psicoterapia? Sì, con una psicoterapia e poi comunque con una forte dose di autoanalisi, di affrontare le mie paure, ecco. Ricordiamo però che questo a livello neurologico bisogna comunque sempre fare un esame, perché gli attacchi di panico possono nascondere un'epilessia leggera anche, no? Ma c'è questo pericolo? Ci sono, guarda, io ho imparato che con gli attacchi di panico, e oltretutto io questo libro l'ho scritto con uno psicologo, il dottor Marchesini, che ha fatto la parte relativa alle terapie brevi in chat con me. Ecco, lui che ti ha detto, cioè è sempre psicologica, la questione può essere anche neurologica. Ma allora, nella maggior parte dei casi è psicologica. Il problema è che noi stessi, la nostra mente è talmente potente che crea dei sintomi che possono essere realissimi, come forte tachicardia vicino all'infarto. Ci sono persone che hanno addirittura delle paresi, piuttosto che dei reali, dei veri e propri sintomi, una sintomatologia fisica che si ripercuote sulla vita di tutti i giorni. E poi invece c'è una parte, una minima parte, che appunto può essere invece un problema neurologico, Rossella, questo ti ha detto il medico? Certo, questo sicuramente sì, però non è il mio campo, io non posso addentrarmi in questo. Certo, comunque noi suggeriamo di andare da un neurologo e di andare da uno psicologo insieme e di scoprire effettivamente se è una base solo psicologica o se c'è anche un problema neurologico, però ricordiamo che il 95% dei casi è un problema psicologico, questo si sa. Senti, la protagonista Bianca viene lasciata da quest'uomo che non sopporta, troverà l'amore, oppure perché a un certo punto, se sta con un uomo, entra in crisi e le vengono gli attacchi di panico? Forse non era così felice. No, infatti, la realtà è che Bianca non voleva guardare a fondo la sua vita, andare in fondo a tutti i problemi che forse poteva avere, cosa che facciamo noi tutti i giorni, e almeno io lo faccio, l'ho fatto spessissimo. A volte si vuole così guardare il lato positivo, credere a alcune cose, mentre in realtà sarebbe opportuno andare fino in fondo. E Bianca si trova appunto in questa situazione difficile in cui alla prima difficoltà tutto ciò che aveva costruito, tutto ciò che faceva parte della sua vita traballa e casca. Scopre che il suo ex, non voglio entrare ecco nei dettagli del romanzo, ma che il suo fidanzato la tradisce, e quindi si rende conto che in realtà tutto quello che aveva costruito non era così solido. E quindi che questi attacchi di panico forse coprivano quello che lei non voleva vedere, come molto spesso ci succede, esatto. No? Allora, Rossella Canevari, No Panic, dall'autrice appunto di Voglio un mondo rosa shocking, andiamo a leggere un altro brano di questo romanzo. Il cuore batte, il respiro è discontinuo, nonostante siano passati 20 anni sono emozionata, come quando la mattina mi aspettava sotto casa con il motorino per portarmi a fare colazione prima di entrare a scuola. Mi avvicino con l'espressione più neutra che riesco ad indossare. Appena mi vede, attacca in modo nervoso il cellulare, mi sorride stranamente, sembra impacciato. Bianca, sei uguale, ma come hai fatto? Vorrei rispondere in modo ironico, ma è una dote che non ho mai avuto, e non trovando le parole, sorrido. Inizia a parlare a macchinetta, senza guardarmi negli occhi e senza darmi il tempo di rispondere. Io lo osservo di sottecchi, sposata, divorziata, figli, single, donna in carriera. A che categoria appartieni? Eccolo Ludo che cerca di stanarmi. Alla categoria donne strane. Ricordiamo allora No Panic, Rossella Canevari, autrice già di Voglio un mondo rosa shocking. Ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a laquotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito, autrice già di Voglio un mondo rosa shocking, Un amore rosa shocking. Ha pubblicato questo nuovo romanzo, No Panic, sempre edizioni Newton Compton, collana Anagramma. Ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.